Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Firenze, 5 gennaio 1537. Befana di sangue. L'assassinio del duca Alessandro de' Medici. Alessandro de' Medici era giovane e forte. Si difese e morse il dicto del cugino che gli aveva inferto la prima pugnalata, ma invano. I suoi assalitori, tre armati che l'avevano presa alle spalle, lo soverchiarono. I sicari, lo scoroncolo e il freccia, dopo averlo immobilizzato, colpirono finché non smise di muoversi e scivolò a terra. L'abito di Caterina Soderini, la zimarra scollata che sormontava la gonna di broccato verde, era bagnata dal sangue del signore di Firenze. Lei, testimone muto e paralizzato dal terrore, chinò gli occhi e toccò il tessuto lordandosi, inorridì e il suo grido ruppe il silenzio della notte. Lorenzino de' Medici, magro ed esile, il primo a colpire, l'afferrò per un braccio minacciando: «Zitta, sciocca! Non capisci? Accuseranno anche te!» «No, non me, tu traditore, voi assassini!» Si liberò, corse ad aprire la porta della camera e chiamò a gran voce: «Aiuto, accorrete!» Il Medici scosse il capo impotente. In un capolavoro di doppiezza, con a pretesto il riserbo di Caterina, aveva chiesto che Alessandro fosse solo e aveva allontanato i servi pagandoli e parlando di un convegno d'amore. Ma quanto ricevuto non bastava più e all'esterno erano di sentinella i lanzi, la guardia al duca. Le urla della donna li avrebbero fatti accorrere. Lorenzina aveva la testa vuota e le gambe molli. Traballò il dito che suo cugino gli aveva quasi staccato con un morso, pulsava crudelmente. Si guardò intorno forfugliando: «Devo fermare il sangue!» Lo scoroncolo gli porse un telo di lina, ingiungendo senza riguardi: «Prendete! Ma si sbriga! Bisogna sparire!» Annuì, l'afferrò, l'avvolse intorno alla ferrita, infilò il guanto a fatica e sì, vi ascicò. I due sicari pressavano e chiusero alle loro spalle mentre il primo servitore entrava in camera. Il corridoio segreto portava all'ingresso posteriore. Sgagliettaiolarono fuori. La casa ribolliva, le finestre si illuminavano una dopo l'altra quasi lucciole d'estate. Voci e richiami si sentivano anche da fuori, ma si perdevano soverchiati dal vociare allegro e festoso. Era la notte della Befana, sotto un'argentea luce di plenilunio i fiorentini erano in strada a far baldoria. Avevano lasciato i cavalli all'imboccatura del vicolo, sorvegliati da un ragazzotto magro che batteva i denti per il freddo. «Questo è per te, ma attento, bocca cucita, saprai ritrovarti anche all'inferno», ringhiò il freccia allungando una moneta. Il ragazzo la prese, deglutì e filò via. I tre balzati in serra partirono, ma via larga era bloccata da un muro di ubriachi. «Fate largo», ingiunse lo scoroncolo, ricambiato da risate e parolacce. Alzò la frusta e il freccia invece: «Lascia, sono conigli che il vino fa leoni, potrebbero reagire». Allargò la borsa. Bastò qualche moneta in aria per sgombrare la carreggiata. Superati i gaudenti, raggiunsero piazza San Marco e di là via fino a Porta San Gallo. Era chiusa, ma una mancia generosa fece sbalancare i battenti. Via Bolognese era davanti a loro. Patrizia De Bicche van der Noot, in libreria con L'uomo dagli occhi glauchi. Corbaccio editore, 295 pagine, 18,60 €. Per riascoltare le storiacce d'autore, www.radio24.it nella sezione podcast. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog Storiacce. Ciao a tutti, a domenica prossima.